Pablo Picasso, raccontato da Matteo Caccia. È incredibile pensare come la Costa Azzurra sia così vicina all'Italia eppure così francese nel suo essere diversa dall'Italia. Se si prende un treno che passa lungo la costa Ligure, appena passata 20 miglia cambia immediatamente tutto, anche se cambia di poco, ma cambia tutto. Cambia il colore delle case, cambia il colore dei vestiti della gente. Se si prosegue su quel treno e si va lungo la Costa Azzurra, si raggiunge Cannes. Cannes è famosa non tanto per essere una città di 75.000 abitanti, non tanto per essere una città sul mare della Costa Azzurra, è famosa per il Festival del Cinema, il festival che c'è praticamente dal 1946, quasi ininterrottamente, tutti gli anni. E Cannes è una di quelle città in cui forse è più famosa una parte della città che non tutta la città, ed è la Croisette, o meglio, la Promenade de la Croisette, che è il viale che costeggia il litorale della città, della città di Cannes. Ed era proprio l'antica strada principale che costeggiava il mare, che era, all'epoca era chiamata Chemin de la Petite Croix, il cammino della crocetta. A Cannes Picasso aveva una casa a cui era particolarmente affezionato. Era una casa che si chiamava Villa La Californie, una casa che si trovava nascosta, non era sul mare, era 100-150 metri all'interno, nascosta da altre ville. È un luogo famoso perché Picasso ci passava chiaramente moltissima parte delle sue giornate estive, in particolar modo, ma continuava a lavorare lì. E a proposito di questa villa, nel cuore di Cannes, si racconta che Miguel Bosé, il cantante, che per questioni parentali di genitori era amico di Picasso, diceva: andavamo spesso nella sua villa a Cannes, la Villa Californie, e lui ci faceva disegnare, metteva i pennelli in mano a me e a mia sorella Lucia e ci chiedeva di aiutarlo usando solo due colori, il verde e il rosa. Una volta in una casa di amici a New York, davanti a un Picasso, ho riconosciuto un angolo rosa che avevo fatto io in quella villa a Cannes. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it